E questa è la mia piccola finestra sul mondo. Ogni istante uno spettacolo diverso. Io magari non lo capisco, forse non sono neanche d'accordo con questo mondo, ma sai una cosa, lo accetto e continuo tranquillo a galleggiare. La chiglia della vita deve essere stabile, questo voglio dire. Segui la corrente, si sa che tutti i fiumi finiscono in mare. L'idea è cercare di essere sempre sul punto di partire. Ogni volta che si arriva, si risparmiano presentazioni e addii. Il viaggio non richiede una spiegazione, ma solo dei passeggeri. E a questo che servite voi. È come arrivare su questo pianeta con una scatola di pastelli. C'è chi ha la scatola da 8 pastelli e chi invece ha quella da 16. Ma quello che conta è quello che fai con i pastelli, con i colori che ti hanno dato. Non state a preoccuparvi di colorare dentro fuori dai contorni. Colorate fuori dai contorni, dico io, ma anche fuori dalla pagina. Non mettetemi limiti. Facciamo rotta verso il mare aperto, non restiamo impantanati. E tu ricondizionami o scrivi un altro testo, così almeno in 2 minuti sarai pure tu depresso. E poi colleziona i miei dischi sul tuo desktop, che quando arrivi a 10 ti suicidi brutto fesso. E non è il tempo che mi tiene sulle spine, il vento passa nelle spighe, l'universo si oltrepassa lo stile. Sono atleti e ballerini in equilibrio sopra un filo, sono le lettere che imprimo dentro i chiodi di un fachiro. Bando al sesso, compromette sempre tutto quanto, gioia e incanto del momento che ti fotte in un momento e sei rimasto sotto, da solo in un salotto, senza manco mezzo amico d'un pippotto. Rotto il contatto con il mondo, son talmente tanto vero che ho le rughe per l'insonnia, la colonia me la bevo come Assenzio. Rende digeribile il cemento che mi mangia a colazione, a pranzo, a cena, quando sento che piatto piange. Accorciamo le distanze, congiungiamo bisettrici che si incontrano sull'asse. Mezze, tacche, allunghiamo le distanze. Se io mi siedo qui, tu almeno stai su Marte. Faccia in sangue, ma mica per le botte. Son le facciate date, quelle prese, quelle accolte. Morte, le sensazioni infette. Chi vive non riflette, non lo ammette. Fa un po' il divo e fa marchette. Ma vuoi mettere? Se sarebbe più facile convincersi del fatto, ma sul pacco ha scritto fragile. Simpatico il mio amico, mi ha promesso una vacanza tipo bimbi del Ruanda, tipo roba troppo saggia, tipo troverai te stesso nudo sotto ad una palma. Dai, mangiamoci sto trip e via in Thailandia. Ti pare che sia il caso? Ti pare che sia il tempo? Ti pare, ma di pare, sopraappare, sopraappare, ne è un bordello. Ma ti pare di restare così a lungo nell'attesa del compare, chiuso al cesso per legittima difesa da folla inferocita, con suocera impazzita sulla testa dell'armata, con accetta e bandierina. Siamo piccoli nell'anima e grandissimi coglioni, venditori di folletti, nani draghi e chiacchieroni. Ma se provi a darci un senso sarai il solo, e magari tutti i dischi puoi ne vendere a milioni.